d'argento che brilli nel ciel. Il tuo splendor mi fa morire di nostalgia. Oh, quanti ricordi fai vivere tu, stella d'argento. Ed incanto nel mestico d'oro, due cuori amanti pieni di malinconia, un bacio fremente e poi nulla più, stella d'argento. Piangevi anche tu, dolce amore, tu parti domani, scorderai questo breve incanto, non tremare, baciai le sue mani e nella notte poi sparì. Splendere più. Ai ai ai.